Vi do il benvenuto presso il Centro Trevi a nome della Biblioteca Claudia Augusta e vi anticipo prima di iniziare quelli che sono i nostri appuntamenti, i prossimi appuntamenti. La prossima settimana, il 14 ottobre, abbiamo la presentazione di un altro libro che è stato Psiche e Società, la scuola di Francoforte di fronte al fascismo, a cura di Claudio Corradetti. Mentre poi mercoledì 8 ottobre si riunirà nuovamente il gruppo di lettura di narrativa locale localmente. Ringrazio tantissimo i nostri ospiti, Gabriele Di Luca, autore del libro Lingue Matrigne, accompagnato da Donatella Trevisan. Grazie e vi auguro una buona serata e un buon ascolto. Eccoci dunque qui dal vivo, siamo stati preceduti e precedute da una serie molto, secondo me, utile di post su Facebook di Gabriele Di Luca che tramite questi post ci ha già dato un'idea, insomma, del libro che andiamo a presentare oggi. Io devo dire che Gabriele, che tutti quanti mi pare qui conosciamo, in questi 30 anni di permanenza in Sud Tirolo, uso questo termine, lo userò d'ora in poi per tutta, insomma, per tutto questo nostro incontro, e parleremo del fatto di cosa voglia dire utilizzare Sud Tirolo oppure Alto Adige oppure provincia di Bolzano e come denominare un luogo indichi già un'apertura oppure una chiusura. Questo volume, Lingue Matrigne, è un volume che presenta una panoramica su tutta una serie di questioni che nel corso degli anni sono state affrontate anche da altri autori, ma che però Gabriele qui riassume in un'ottica che è un'ottica nuova, diversa, e che secondo me è molto utile per comprendere meglio la situazione in cui ci siamo venuti a trovare oggi qui in questo territorio. E infatti il sottotitolo del libro è La menzogna del bilinguismo in Alto Adige sui Tirol, e ci spiegherà poi Gabriele come mai menzogna. Ci parlerà del fatto appunto di come esista uno scollamento molto grande tra una retorica pubblica che vuole la nostra provincia come una provincia bilingue, con un bilinguismo tra virgolette compiuto, e la realtà invece in cui assistiamo a un'indifferenza sempre più grande tra i gruppi linguistici e non solo, perché è proprio un deficit di comunicazione che secondo me soprattutto nell'ultimo capitolo del libro si concentra su quello che poi dopo è l'argomento principe, sarà l'argomento principe di tutta la nostra vita, già ora lo è, ma soprattutto nei prossimi anni, che è l'intelligenza artificiale. Allora, Gabriele fa tutto un inquadramento teorico-filosofico della questione di come una narrazione possa diventare un mito e di come il mito si discosti dalla realtà, e parla quindi del mito del bilinguismo in Alto Adige e un'altrettanta approfondita disquisizione teorica sul come mai in Alto Adige, accanto alle lingue madri, esiste in realtà poi dopo anche un concetto di lingua matrigna, cioè una lingua che diventa matrigna, e che Gabriele vede come fattore, uno dei fattori poi principali della non comunicazione, della mancata comunicazione, della presenza di quello che lui chiama non un muro ma un muretto su cui comunque si inciampa e che comunque divide, che comunque eventualmente richiede fatica per essere superato, che è appunto questo muretto, muro dell'uso della lingua nella quotidianità da parte della popolazione tedescofona e italianofona qui in provincia, e quindi questo scoglio che è dato dal fatto che quello che per chi parla italiano è la seconda lingua, cioè il tedesco, non viene praticato poi dopo dalla popolazione di lingua tedesca che invece parla dialetto e che vive il tedesco Hochdeutsch come una lingua matrigna, e quindi non è una lingua madre ma è una lingua matrigna. Io adesso partirei, Gabriele, subito entrando nel vivo, da questa tua citazione che trovo appunto molto bella: convivenza, parola grossa, parola bella, parola vuota. Due cose. La prima è che io non sono tanto abituato a essere intervistato, ma mi trovo più a mio agio a intervistare, perché io volevo addirittura adesso farti delle domande a te, ma non andrà così. Detto questo, il libro ha una dedica che vorrei esplicitare. La dedica a mio padre è un ricordo, perché uno dei primi, proprio dei ricordi più assidui, no, che io ho di mio padre, è che lui insisteva continuamente dicendo: impara le lingue. Anzi, lui diceva: mi raccomando, impara le lingue. Mi raccomando, in realtà è un intercalare toscano che vuol dire dammi retta, impara le lingue. E io alla fine poi qualche lingua l'ho imparata, cioè ho imparato un po' l'inglese, non benissimo, però posso parlare in inglese, posso parlare malissimo, però mi capiscono in francese, un po' francese posso parlare. Parlo il tedesco, invece l'ho imparato meglio, però l'ho imparato non per impararlo, ma perché mi serviva per i miei studi filosofici. È noto che chi studia filosofia generalmente, perlomeno insomma, era così fino a qualche tempo fa, non essendo la tradizione filosofica italiana particolarmente imponente, a quel punto ci si rivolge alle tre principali aree linguistiche o culturali in cui la filosofia ha un ruolo più marcato, che sono ovviamente la tradizione anglosassone, Inghilterra, America, Francia e Germania. Io, siccome in quel periodo andava di moda Heidegger e la fenomenologia, mi sono indirizzato sul tedesco e ho imparato il tedesco. Ho imparato il tedesco in Germania e grazie al tedesco che ho imparato in Germania poi ho trovato lavoro qui. Una delle domande che mi sono sempre fatto, alla quale non posso però rispondere, è: avrei imparato il tedesco se fossi venuto qui? E io credo che non l'avrei imparato. Perché non l'avrei imparato? Il tema del libro in realtà è anche un esame, un autoesame della mia vita qui. Io ho passato, sono ancora qui ovviamente, ma sono 30 anni che sto qui. E in questi 30 anni questa domanda me la sono fatta più volte. Cioè, io sono arrivato qui già sapendo il tedesco, abbastanza bene. E poi una volta che sono stato qui, il mio tedesco si è abbastanza rattrappito, cioè ha calato di peso, Questa esperienza, dalla quale parto anche nel libro, perché il libro viene introdotto con un capitolo che si intitola Come divenni bilingue e poi smisi di esserlo. In realtà è un'esagerazione, no? È un po' un'esagerazione, in realtà non ho smesso di esserlo, io all'occorrenza parlo tedesco. Però una delle cose che ho verificato è che chi viene qua da fuori, per esempio dal resto d'Italia, ha molta difficoltà a imparare il tedesco o generalmente, magari anche se mosso da curiosità iniziale, viene frenato da delle dinamiche che io poi ho esaminato nel libro. Questo ovviamente è una parte, perché io non... E tu mi chiedevi della convivenza che è vuota. Vuoto è la retorica della convivenza, cioè che esista una forma di convivenza è vero, esiste, ma non è così come viene raccontata. Come viene raccontata è che sia un fatto, diciamo, che contraddistingue la nostra provincia in modo meritorio, che tutto funziona bene e funzionerà sempre meglio, perché ci sono stati investimenti, perché essere plurilingue è meraviglioso, perché ci si capisce meglio se si parlano più lingue, tutto vero, ma anche tutto retorico. Quindi ecco, io ho cercato di scavare dentro questo, quello che chiamo mito, e poi se vuoi ti dico perché dal mito passo alla menzogna, anche guardando a me stesso, no? Alla mia esperienza. Diciamo che quando sono arrivato avrei potuto dire sì, io sono in effetti completamente bilingue, sono virtuosamente bilingue, mi muovo in due culture, sono perfettamente a mio agio, e poi invece secondo me non è così. Non è così, cioè se io mi faccio un esame di coscienza dico che non è così. Dall'altra parte, se guardo al gruppo linguistico tedesco, io per lavoro ho la fortuna di lavorare in una scuola peraltro ottima, una scuola molto buona e ho dei colleghi molto bravi e tutto il resto, però se vedo per esempio l'atteggiamento significa l'impostazione che la maggior parte delle persone con cui lavoro, studenti soprattutto, hanno nei confronti dell'italiano, noto, diciamo, dei deficit estremamente marcati. Non c'è neanche specularità, non si può dire che ci sia specularità, cioè il rapporto degli italiani con il tedesco e con il dialetto è di un certo tipo, il rapporto dei tedeschi con l'italiano è di un certo tipo, varia da zona a zona, cambia da contesto sociale a contesto sociale. Chiaramente se io avessi voluto essere molto preciso avrei scritto 900 pagine facendo inchieste, però io in realtà volevo scrivere un libro che parla soprattutto di me, della mia Befindlichkeit, e nella speranza abbastanza concreta che quello che dico possa trovare l'apprezzamento, il rispecchiamento in buona parte di chi legge, non in tutti ovviamente, infatti questo libro è criticabilissimo, anzi io auspico due cose. Primo, che venga letto nel senso proprio letto, cioè dall'inizio alla fine, e possibilmente capito. Secondo, se c'è qualcosa che non va, che si dica. Questo sarebbe, come dire, una volta si diceva i libri servono a far discutere. Si discute poco, secondo me, di questo, e anche questo poi è un tema del libro. Secondo me la tesi, perlomeno io leggendo il libro, che mi è parsa più convincente è proprio questa di questo passaggio graduale che c'è stato da questo contrapporsi, quindi da questo Gegeneinander al Nebeneinander, quindi società parallele, fino adesso a questo One Einander, in cui si può vivere tranquillamente ignorando completamente l'esistenza, la presenza dell'altro gruppo e vivere quindi nella propria bolla. Cosa che mi sembra tra l'altro rispecchiare un trend più generale che non riguarda adesso soltanto come noi viviamo, conviviamo o non conviviamo quindi qui, ma che riguarda più in generale la società, e penso che anche i social media siano costruiti molto, no? Su questo principio di farti vedere sempre di più soltanto quello che è simile a te, e quindi tu alla fine pensi che quello che è simile a te è tutto, e non ti accorgi che fuori c'è tantissima altra cosa, perché sei dentro e sempre di più entri in questa bolla che ti sembra esaurire il mondo, mentre invece ti rinchiude in realtà in una prigione. E quindi ecco questo pensiero qui e questa visione di una società in cui c'è un'indifferenza crescente verso l'altro e c'è un chiudersi sempre di più nel proprio ambito, mi pare appunto una delle cose che più mi ha convinto del libro. Tu adesso hai parlato, ho accennato a questo fatto che hai un po' disimparato il tuo tedesco stando qui, non sai se tu fossi venuto qui senza sapere il tedesco se l'avresti imparato oppure no. Nel libro citi questo tuo primo, diciamo così, incontro, approccio con il mondo di lingua tedesca locale, con il tuo primo incarico di insegnante in cui ti ritrovi in questa scuola tedesca con un preside che nella prima riunione del corpo docente parla in dialetto stretto e quindi tu, pur col tuo bagaglio di tedesco Hochdeutsch ben preparato, non capisci quello che viene detto. Secondo me questo tema appunto della lingua in un territorio multilingue, il fatto di avere una lingua franca, tu parli dell'italiano come lingua franca di questo territorio, cioè l'italiano che viene utilizzato anche dai tedescofoni quando si relazionano con persone che magari il tedesco non lo parlano benissimo, oppure diciamo il tedesco possono anche parlarlo bene ma non parlano dialetto, ecco sostanzialmente quello, non parlano dialetto e quindi si passa direttamente all'italiano, cioè il tedesco, la Hochsprache viene proprio saltata, viene utilizzata soltanto in caso di estrema necessità, se ho un turista germanico che parla tedesco Hochdeutsch allora lì si è costretti perché non sa l'italiano, ma se invece c'è l'italiano viene usato l'italiano. Ecco, io questo, diciamo così, rapporto tra una lingua franca e invece poi dopo il dialetto che diventa, io adesso lo chiamo così, pseudotecnicismo, gergo, cioè che diventa quasi escludente, perché poi dopo questo è, il dialetto può essere anche quello, ed è stato in tanti momenti della storia anche un ponte, perché tantissime, diciamo, lingue franche dal 600 al 900, tutte le lingue nelle zone del Mediterraneo o altro, in realtà si componevano di frammenti di tutte le lingue che interagivano in quell'ambito di commerci, di scambi, di comunicazione, fino a formare appunto questa lingua che era una lingua tutta mischiata, franca, e che quindi aveva delle componenti in cui anche i dialetti o così avevano il loro ruolo, ci si capiva, mentre invece il dialetto può diventare, come in questo caso, quasi una Geheimsprache, cioè una cosa che esclude chi non la conosce e chi non ne fa parte, quindi diventa più che un abbassare il tono, cioè togliersi dall'accademismo e entrare più nella quotidianità, può diventare l'esatto opposto, cioè diventare un qualcosa che ti dice tu non fai parte del mio gruppo. Ecco, allora io tu nel libro questa dinamica dell'utilizzo del dialetto che ha queste due sfaccettature, che può essere da una parte un qualcosa che arricchisce il quotidiano perché magari è in grado di esprimere meglio, perché è più vicino a del, diciamo così, a una parte più profonda di tutti noi, che quindi può esprimere meglio il contatto anche emotivo col prossimo, e invece l'altro aspetto che può diventare escludente, e lo è, verso chi non la sa. Ecco, se magari mi puoi così riapprofondire questo ambito. Sì, ora io non ho calcato troppo la mano sul vocabolo escludente, perché se parliamo di esclusione dobbiamo immaginarci necessariamente una volontà di escludere, e io, molto fedele al mio principio fenomenologico, significa non devo sovrapporre quello che penso delle cose di cui sto parlando, ma devo semplicemente descrivere le cose di cui mi sto occupando. Ho cercato di esaminare nel dettaglio in cosa consiste il rapporto tra lingue matrigne, perché apparentemente, ed è quello che per esempio pensano tutti, diciamo tutti, qui quello che non funziona è il rapporto tra italiani e tedeschi, e si ha difficoltà con l'italiano e con il tedesco. Per esempio, a distanza, quelli che non conoscono l'Alto Adige o Südtirol, quelli che non lo conoscono, si fermano lì e dicono: vabbè, qui c'è il tedesco e l'italiano, non si capiscono, eccetera. E questa è una visione da fuori estremamente sfocata, cioè manca completamente il bersaglio. La dialettica tra lingue matrigne, secondo me, è, e ho cercato appunto di analizzarla nel capitolo che si chiama Lingua madre e lingua matrigna, è più complesso questo rapporto, perché in effetti per certi versi la vera relazione conflittuale è tra il parlante italiano e il dialetto, e incredibilmente tra il parlante dialettale e la lingua standard tedesca. È una sfumatura, perché messi alle strette, in realtà i parlanti tedeschi, quindi dialettali, non direbbero che il tedesco standard rappresenta un problema, e di fatto non rappresenta in buona parte dei casi un problema, cioè si riesce a parlare tedesco, però non lo si può fare con gli italiani, non lo si fa mai con gli italiani, a meno che non ci siano italiani profondamente radicati nei loro luoghi, che sono pochi, soprattutto nelle periferie, che quelli possono parlare dialetto. Allora lì la comunicazione funziona. Con italiani avventizi o con italiani di città l'uso del dialetto è impossibile, appunto perché è escludente, nel senso che non sentono di appartenere, sentono che non c'è un ponte, non è possibile includersi nella stessa lingua, e allora ricorrono all'italiano. L'italiano che si sente, che magari sa il tedesco un po' o anche abbastanza bene, e si sente parlare in italiano, si rincula verso una sorta di ostilità nei confronti dei tedeschi, attribuendo loro la chiusura, il fatto che... Ecco, questa dinamica io l'ho vista inizialmente quando sono venuto 30 anni fa, e si è mantenuta identica per 30 anni. Quindi ci saranno persone tra il pubblico che avranno sicuramente una superficie di osservazione più lunga, ma è così. E questo crea, diciamo, quelli che appunto non sono tanto dei muri, ma sono dei muretti, in cui tu comunque inciampi e comunque ti fai male. Per quanto riguarda la lingua franca, è chiaro che la lingua franca è l'italiano. La lingua franca è l'italiano proprio perché è la lingua con la quale, che i tedeschi conoscono meglio rispetto, cioè che conoscono generalmente, che gli italiani ovviamente conoscono, e quindi si stabilisce quella come lingua diciamo della comunicazione media tra i gruppi linguistici. Però tu poi parlavi giustamente del fenomeno dell'indifferenza, sul quale io torno a spirale nel vero senso della parola, cioè lo ha visto all'inizio del libro, lo ripercorro, è come una sorta di girone infernale dell'indifferenza, e si va da un'indifferenza appena percepita, si scende fino veramente alla profondità più assoluta, dove può diventare letteralmente una trappola mortale, che è quella dell'intelligenza artificiale, perché lì i rapporti tra le persone possono essere mediati da una macchina. Cioè, e quindi la macchina ti evita il confronto con l'altro. Quindi da problematico il confronto evapora completamente. Io posso esternalizzarlo completamente nella macchina. Faccio un ultimo richiamo a quello che dicevi, perché secondo me è importante sottolinearlo. Nel libro traccio anche una fenomenologia storica del rapporto tra i gruppi linguistici, parlando appunto di un percorso che va dal Gegen einander, sto parlando degli anni, gli anni qui il Gegenheim Under si può retrocedere fino alla formazione degli stati nazionali, in realtà io ne faccio un cenno, però fondamentalmente l'acutizzarsi del Gegenheim Under, dello stare contro, avviene dopo la prima guerra mondiale, chiaramente il fascismo e poi tutto il difficile percorso che ha portato all'autonomia, con in particolare diciamo chiaramente insomma gli anni degli attentati eccetera. Allora quello era un Gegenheim Under che, in quanto Gegenheim Under, produceva anche paradossalmente più curiosità, cioè produceva la frizione, lo scontro, produceva anche quelli che erano il desiderio di superarlo, no? Per esempio tutta la figura di Alexander Langer, del quale parlo mettendolo in relazione a Magnago, Alexander Langer per esempio ha fatto quello che ha fatto perché viene dal Gegenheim Under, vuole superare il Gegenheim Under, e in qualche modo l'autonomia che vince, cioè Magnago, la sua idea è quella del Nebenheim Under, cioè supera il Gegenheim Under con il Nebenheim Under. Nebenheim Under significa noi viviamo accanto, ognuno nel suo, e va bene così, perché soltanto se riusciamo a non pestarci i piedi, detto molto volgarmente, in qualche modo riusciamo a capirci. E da un punto di vista, tutte queste due opzioni, io per esempio dico tutte queste due opzioni, cioè quella diciamo iperpacifista, di pacifista nel senso irenista e intersezionalista di Langer, è una risposta intelligente al Gegenheim Under, così come Magnago ha una risposta intelligente al Gegenheim Under, che è il Nebenheim Under. Ma adesso sia il Gegen che il Neben stanno andando in direzione, si risolvono nell'one. E l'one significa io ti vedo, ti guardo, ti parlo, ma non me ne frega assolutamente niente di te, perché il mondo al quale appartengo mi basta. Io del tuo mondo non so fondamentalmente che farci. Cioè c'è una sorta di crollo radicale della curiosità. E questo si vede per esempio nel consumo culturale. Nel consumo culturale. Il consumo culturale in Alto Adige è letteralmente spaccato in due. I cinema, i libri, anche se i libri ormai non li legge più nessuno, per cui c'è fondamentalmente una grande riunione, diciamo, straordinaria. Però fondamentalmente accade questo, cioè che ognuno si accontenta di gravitare intorno al proprio polo culturale, no? Che per gli italiani fondamentalmente è l'Italia, ci sono tantissimi italiani che vivono qui, e se vengono dall'Umbria stanno lì a vedere cosa fa il Perugia, cosa fa la Ternana, se vengono dalla Liguria si fanno la barca e poi li vedi e vanno... E per quanto riguarda i tedeschi, che sono più radicati ovviamente, a molti basta e avanza quello che hanno qui, se no diciamo culturalmente quelli che si interessano di letteratura ogni tanto vanno alla Fiera di Francoforte, non so quanti siano, ma non credo molti. Tu questi temi li sviluppi all'interno del libro attraverso delle scene. Racconti quindi anche molti fatti concreti, fatti vissuti, realtà diciamo così raccontate, narrate, che quindi danno di nuovo, cioè mettono a terra tutte le premesse teoriche e filosofiche sviluppate all'inizio del libro e poi appunto nelle varie sezioni. E mi pare che questo tema dell'indifferenza e di quello che tu adesso hai accennato, proprio del fatto che sono proprio due mondi paralleli che non si incontrano, sia più evidente nel capitolo che riguarda i media, come tu adesso hai brevemente accennato, in cui fai anche riferimento ai pochi ma pur esistenti tentativi di fare un'informazione bilingue o comunque che vada oltre i gruppi linguistici, ma sostanzialmente è un esperimento per ora ancora non riuscito, perché comunque le informazioni non solo sono in lingue diverse ma riguardano poi anche fatti diversi, e quindi tutto il background di retroterra che uno ha, cioè che non basta avere una lingua condivisa, se anche l'avessimo, no? Quindi parliamo magari italiano, però, perché è la lingua franca, però se tutto il mio background di letture, canzoni, articoli di giornale, informazione generale su quello che succede nel mondo, eccetera, eccetera, io l'ho presa da una parte e tu da un'altra, difficilmente riusciremo veramente a parlarci, a capirci, se non con uno sforzo attivo di comprensione. E quindi io mi riallaccio adesso e ti chiedo poi dopo di spiegare un attimino come mai hai voluto inserire le scene che secondo me sono quello che è la parte portante proprio del libro, quello che rende plastico, visivo e molto comprensibile poi dopo quello che dici anche a livello teorico. Questo fatto della volontarietà, della involontarietà, dell'esclusione che deriva dall'uso del dialetto, secondo me è legata al tema che tu anche tocchi varie volte, dello sforzo e del non voler far fatica. Cioè, parlare dialetto uno può farlo tranquillamente senza nessunissimo intento di escludere proprio nessuno. Semplicemente parla quello che è abituato a parlare nel suo quotidiano, senza voler escludere niente, nessuno, ma semplicemente senza fare lo sforzo attivo di pensare a chi c'è intorno a lui, e quindi se chi c'è intorno a lui o lei può capire o non capire. Allora, io che sono di una famiglia, insomma, in cui si parlano varie lingue, a me capita, c'è mia sorella che ha un compagno che è di lingua italiana, che non sa il tedesco. Noi in casa spessissimo parliamo tedesco, dialetto tra l'altro, e ci caschiamo nel, così, naturalmente, no? Si parla, si inizia a parlare, e capita persino a noi che siamo attenti a volte di andare avanti nel dialetto e quindi solo dopo un po' accorgerci che stiamo escludendo una persona presente al tavolo che non sta capendo quello che stiamo dicendo. E quindi servirebbe questa, diciamo, fatica, questo sforzo attivo per andare verso l'altro, e tu dici più volte nel libro, noi di fare questo sforzo attivo non ne abbiamo spesso voglia, non vogliamo far fatica, e nell'ultimo capitolo con l'intelligenza artificiale dici, qui siamo arrivati poi dopo proprio all'offerta di mercato in cui proprio non dobbiamo fare più nessuna fatica, perché basta schiacciare un bottone e abbiamo tutto pronto. Sì, ma fra parentesi, l'intelligenza artificiale parla tranquillamente dialetto. Cioè, se tu chiedi all'intelligenza artificiale di risponderti nel dialetto della Val Venosta, lo fa. Distingue dialetti di vario tipo, perché nutrendosi di tutto quello di cui si può nutrire, avvalanga, parlerà probabilmente a volte con la sfumatura. Mi puoi fare la sfumatura di quella via, perché è diversa da una, cioè poi i glottologi si possono divertire. Però allora, tu hai citato due cose. Innanzitutto, io ripeto, non c'è da parte mia nessuna condanna morale del dialetto, nel senso che l'effetto di esclusione del dialetto, che peraltro l'esame del dialetto occupa poche pagine, non tante del mio testo, poche. Però tu mi dicevi dei mondi, no? Dei mondi lontani, dei media. Io ho avuto la fortuna, di aver lavorato per un giornale italiano, un giornale tedesco e un giornale misto. Quindi ho visto tante redazioni e ho visto esattamente come si sviluppano le cose. È chiaro che anche il mondo, infatti parlo dell'uovo e della gallina, no? Cioè mi chiedo, cioè è l'informazione che genera una società divisa o la società divisa che genera un'informazione divisa? È del tutto insensato chiederselo, è così. L'informazione rispecchia questa divisione e la divisione rispecchia il mondo dell'informazione. Siccome si generano delle abitudini, queste abitudini vanno avanti, si portano avanti e sono molto difficili da, e lì ci vorrebbe uno sforzo che non si fa. Per esempio, all'interno della redazione di Salto, nella quale io sono stato, diciamo, nella prima redazione di Salto, noi effettivamente replicavamo le dinamiche classiche, cioè tra di noi parlavamo italiano, i tedeschi si occupavano prevalentemente delle notizie che provenivano dal mondo tedesco, potevano in qualche modo attenere al mondo tedesco, e gli italiani, mi ricordo c'era un amico, collega, il quale continuava a dire bisognerebbe illustrare maggiormente la realtà di Via Druso. Questo proprio come richiesta vera, no? Nel senso che lui diceva parliamo poco di Via Druso, perché lui stava in Via Druso, no? E quindi vedeva intorno a sé, diciamo, un mondo che diceva non viene rispecchiato abbastanza. Allora Salto avrebbe dovuto nascere per dire io che vengo da Via Druso voglio assolutamente occuparmi della Valpusteria. Ecco, ma questa istanza di conoscenza reciproca o di orchestrazione, non c'è mai stata un'orchestrazione, cioè una discussione su ci occupiamo del tema X, in quale lingua lo facciamo, per raggiungere chi. Questo assolutamente non c'è, anche perché poi è difficilissimo riuscire ad ottenerlo, no? Questa regia, magari sotto il battito della cronaca, alla fine chi lo fa? Chi lo fa questo? Chi lo fa? Lo faccio io. Però gli incroci erano pochissimi. Un'altra delle cose che non succedeva mai, e che forse non succede mai, io per esempio questo tabù l'ho rotto, è scrivere nell'altra lingua. Io scrivo nell'altra lingua. Beh, questo per esempio quando è attaccato a scrivere nell'altra lingua o sui commenti dice ma te sei italiano, ma perché non scrivi in italiano? Allora, questo orientamento, questi macigni della mente sono difficilmente spostabili. E poi appunto, vabbè, se vogliamo parlare un po' di intelligenza artificiale, perché poi tutto sfocia lì, perché secondo me è proprio una cartina di tornasole ed è quello che ci succederà. Ora, io vedo nel pubblico persone tutte, insomma, voglio dire mature, ma comunque ma ci sono anche delle persone anche mature che hanno scoperto, io so che hanno scoperto l'intelligenza artificiale e da giochino sta diventando un vero e proprio vortice, ed è un vortice, e credo che l'intelligenza artificiale impatterà questo nostro piccolo mondo in un modo assolutamente imprevedibile, perché ne decostruisce tutta la logica, a cominciare dal fatto che è un'entità fluida senza genere e completamente poliglotta. Io adesso magari se lo trovo ve lo leggo per farvi ridere, mi sono immaginato una scenetta un po' in stile Flaianeo, io sono un grande amante di Ennio Flaiano, in cui c'è l'imbarazzo delle autorità provinciali di far dichiarare l'intelligenza artificiale, cioè di portarla al censimento, no? E dice vabbè, ma chi sei, no? Più o meno, chi sei? Sono un algoritmo, un groviglio di algoritmi. Questo, per esempio, suscita molto sospetto. Sì, maschio o femmina? Né maschio né femmina, va bene, sul gender fluid ci passiamo sopra, però sei italiano, tedesco o ladina? O ladin, asterisco. E quella dice, io parlo tutte le lingue. Insomma, se vuole leggete, anzi non ve lo leggo, poi questo raccontino c'è nel libro, se comprate il libro poi vedete come finisce. Ecco, però forse non finisce così, perché finora è sempre finita così, tipo gli stranieri. Io mi ricordo una ventina d'anni fa, quando avevo cominciato a bazzicare internet per esporre i miei commenti, peraltro non sempre graditi, e che mi ha causato anche problemi, insomma, cause, eccetera, eccetera. C'era Luca Fazzi, no? Che mi diceva, vedrai che quando arriveranno gli stranieri, vedrai che cambia tutto. E invece io ho visto cinesi in fila che si dichiaravano ladini, peruviani che assolutamente dicevano di essere tedeschi. Ecco, con l'intelligenza artificiale può darsi che questo giochino vada a ramengo. Io non dico per fortuna o accidenti, ma va a ramengo. Io concordo. E niente, i due capitoli finali del tuo libro, che sono appunto l'ultimo è quello sull'intelligenza artificiale, penultimo però sulla sanità. Secondo me questi due capitoli che chiudono il libro sono anche quelli più proiettati verso il futuro, in cui si analizzano delle situazioni che sono delle situazioni di estremissima attualità, che sono la carenza del personale nelle strutture sanitarie e di cura, in case di riposo, e di come appunto l'ostacolo maggiore sia dato da questa necessità di avere un'attestazione di bilinguismo per poter appunto svolgere la professione. E lì si apre un discorso molto profondo, bello, su come in realtà, soprattutto nell'ambito delle professioni sanitarie, la lingua nel senso proprio, in realtà è una delle vie di comunicazione, neanche quella più importante, perché poi molto più importante è l'empatia, il comunicare attraverso quello che si fa, quindi proprio la pragmatica del gesto e quindi del fatto di come in realtà sia completamente superato la storia, è inutile voler certificare una conoscenza di due lingue quando in realtà la relazione, perché è quella che si costruisce tra un paziente e un medico, oppure tra un paziente e un'infermiera, tra un paziente e un assistente, è quello. E quindi in realtà la certificazione linguistica non è che dirà che la persona sarà più in grado di prendersi cura dell'anziano, dell'anziana o della paziente. Sono altre cose che poi alla fine contano. Io l'episodio che racconti di tuo padre, se posso fare così, perché mi è, secondo me, indicativissimo. Allora, Gabriele racconta della morte di suo padre, avvenuta appunto in un ospedale in cui nel letto accanto c'era, divisa appunto da questo paravento, una persona proveniente dall'estero, quindi che non sapeva l'italiano, e che però si rende conto quindi che è morto il padre di Gabriele. E Gabriele sente che questa persona col cellulare fa tradurre un messaggio di cordoglio in italiano, e quindi lui sente provenire da questo letto di questa persona comunque un messaggio di cordoglio rivolto a lui, e di come quindi anche l'intelligenza artificiale, no, che sembrerebbe comunque essere quasi solo uno strumento che tra virgolette ci disumanizza, nel senso che rende inutile e superflua la relazione, può invece a sua volta diventare un mezzo di relazione. Allora, io, grazie di questo input, io contesto parzialmente la ricostruzione iniziale che hai fatto, perché, su questo voglio essere assolutamente chiaro, non è che la lingua nel rapporto di cura è secondaria. Io spendo un sacco di parole dicendo che la lingua fonda il rapporto di cura. Quindi una persona in certi frangenti di difficoltà è aiutata tantissimo. Questo però non viene risolto dalla preminenza della certificazione. E qui attenzione, perché c'è quella che i greci chiamavano aporia. C'è un'aporia, e l'aporia va lasciata stare, cioè l'aporia si vive, non si può risolvere. Se è un'aporia bisogna starci, e significa che non si può dire allora aboliamo il patentino, oppure allora facciamo, c'era ad esempio una campagna diciamo assolutamente stupida fatta da un partito locale manifesti, ho attaccato i manifesti dicendo morto perché non gli è stata a causa del non uso della madrelingua. Ecco. Questo, per esempio, questo è ridurre veramente tutta la problematica molto sofisticata, molto delicata a qualcosa di volgare, a qualcosa proprio di infame. Però la lingua deve essere assolutamente messa al centro, ma non attraverso la forca caudina della certificazione, anche perché chi fa la certificazione non la impara la lingua, si fa furbo, se può se la compra, come vediamo, giustamente, oppure impara le due o tre frasi che non gli servono poi a niente, perché poi tanto non la apparerà mai, supera l'esame e cosa sa? Niente, rimane esattamente tutto uguale. Quindi l'approccio deve essere a favore della diffusione della conoscenza delle lingue, ma l'espediente del patentino, è qualcosa di meccanico che poteva funzionare, diciamo, all'interno dell'organismo sistematico della seconda autonomia, ma che adesso non funziona più, perché non certifica assolutamente più niente. Chi avrà la bontà di leggersi il libro vedrà che c'è tutta l'analisi di questo problema. Io la eseguo riportando alla luce il contrasto tra la filosofia degli atti linguistici di Austin e di Searle e di Foucault, che è molto, molto, molto interessante per capire la nostra realtà. Noi non ci siamo abituati, perché noi ragioniamo con Pacher, Urzi, ecco, invece per capire la nostra realtà bisogna leggere Foucault e Austin. No, con Pacher non sa niente, e Urzi ancora meno. Bisogna andare alla vera sostanza di pensiero che potrebbe sbloccare la situazione. Però per sbloccare la situazione dovremmo volerla sbloccare. Ecco, io su questo ho dei dubbietti. Secondo me non la vogliamo sbloccare, proprio perché nel trionfo dell'indifferenza, alla fine, ma chi se ne fotte? E direi che con questo possiamo anche chiudere. Se ci fossero ovviamente domande, voglia di intervenire o altro, abbiamo ancora più o meno 10 minuti, un quarto d'ora per poter appunto eventualmente far domande. Bene, passiamo subito alle domande. Grazie. In tutto questo contesto con Mitta e Nando, Ging, Nando, tutto quello che hai detto, i mistilingui dove li mettiamo? Perché io sono zweisprachig, gemischtsprachig, e a me tutta questa cosa, tutta la mia vita mi ha accompagnato tra pregiudizi, questo, quello, quell'altro, e adesso capisco anche questo Unwohlsein, lo chiamo così, che ho provato spesso, perché io mi chiamo Gippone, il professore di italiano mi chiamava Ghippone e la professoressa di tedesco ha voluto darmi assolutamente in tedesco un esame di riparazione, eccetera eccetera, e questo adesso l'ho superato, però ci è voluto un po'. Allora guarda, ti ringrazio ovviamente. Allora, il tema del bilingue naturale, mistilingue non vuol dire un cavolo di niente. Mistilingue, anche lì era il discorso, diciamo, del mishmash, cioè fatto da gente che non ha letto due libri di linguistica. No? Parliamo di bilingui naturali. Per esempio, i miei figli sono bilingui naturali. Io mi era venuto in mente di caricare su questo, però siccome io non voglio parlare di soluzioni, e qui non c'è una soluzione, cioè qui non vi dico dovete far così, dobbiamo far così, questa è una descrizione pura. Allora, i bilingue naturali vivono con tutte le contraddizioni del caso, Ma fondamentalmente sono quelli, diciamo, che alla fine se ne possono anche sbattere, e alla fine se ne sbattono. E no, no, no. Sì, no, ha detto alla fine. Pienamente. Ho detto alla fine, alla fine, alla fine. Sai, io lo vedo sui miei figli, no? Sui miei figli, che sono dei bilingui naturali, straordinariamente capaci, stanno a Bressanone, uno sta a Innsbruck, uno sta in banca. Effettivamente uno è proprio immune, nel senso, se gli parlassi di queste cose direbbe non capisco neanche cosa tu dica. L'altro lo fa, ma per altre ragioni, nel senso, ha dei mal di pancia, ma per altre ragioni. Comunque c'è una nota alla fine del libro in cui, secondo me, una nota proprio cruciale del libro in cui affronto di petto questo problema e dico quello che voglio dire va detto, insomma, che è chiaro che l'esperienza del bilingue naturale è l'esperienza. Però prima che tu ti inneschi, c'era un libro che purtroppo questo riferimento l'abbiamo tolto perché sennò ovviamente il libro diventava troppo grosso, a un certo punto abbiamo cominciato a tagliare pagine, ma mi ricordavo di un libro fantastico, mi sembra edito da Folio Verlag, adesso non mi ricordo, che diceva tutti i numeri dell'Alto Adige, tutti, ma tipo citava quante mosche ci sono e ti dava il numero, quanti frigoriferi ti dava il numero, quante piastrelle ti dava il numero, quante mammelle di vacca e ti dava il numero, quanti bilingui non c'era. Questo è un numero assolutamente che non viene evidenziato, perché effettivamente la logica che io invece sulla quale batto è quella del confronto tra le lingue. Chi in sé ha due lingue avrebbe fatto crollare il sistema molto prima, cioè nel senso che mette in crisi tutto il sistema. Allora, io che provengo, faccio un inciso breve, mi scuso adesso di prendere tempo, ma però lo devo rispetto a questo fatto appunto dell'indifferenza presunta di chi è bilingue o proviene bilingue naturale, che quindi proviene da famiglie miste. Allora, io da piccola abitavo a Bolzano, quartiere italiano Don Bosco. Ho fatto le scuole elementari di lingua tedesca, le Manzoni, che avevano due sezioni di lingua italiana e due di lingua tedesca, erano lì nello stesso edificio. Nella mia classe, più della metà dei bambini e delle bambine della mia classe provenivano da famiglie miste e non c'era nessunissimo problema. Veniva vissuto in modo tranquillissimo e c'era una cosa proprio... Allora, nell'estate tra la prima e la seconda elementare, alle scuole Manzoni hanno diviso gli ingressi tra la sezione italiana e quella tedesca, messo la bella rete di divisione nel cortile per non far incontrare, e soltanto da lì, cosa che prima non c'era mai stata, è iniziato questo fatto di doversi identificare o da una parte o dall'altra. E io ti assicuro che una parte consistente di chi proveniva da famiglie miste ha svolto un ruolo attivo grande nel schierarsi dalla parte, capito? Cioè, quando era in un gruppo tedesco, prendere le difese del gruppo italiano, quando era nel gruppo italiano, prendere le difese del gruppo tedesco e cercare di spezzare questa cosa che era appunto la creazione di due società parallele che non si incontravano, ma che però in nuce, nella realtà dei fatti, c'erano. Sicuramente. Io rilancio, per me, 7.000. Allora, innanzitutto volevo anche in questa sede esprimere comunque apprezzamento e stima per il lavoro che hai fatto, Gabriele, soprattutto per una ragione, perché noi in questi anni abbiamo parlato tantissimo, in realtà, e parliamo sempre, perché su Teolo si parla sempre di bilinguismo, e però è evidente che non si guarda, non si vuole almeno guardare in faccia a un certo punto la realtà. E stasera un po' abbiamo cominciato a farlo, ma ovviamente nel libro è più chiaro che guardare in faccia la realtà significa riconoscere che ciò che ci raccontiamo continuamente, ovvero che il patentino di bilinguismo è il patentino di bilinguismo tra l'italiano e la lingua standard tedesca, ma la lingua parlata nella società è un'altra, e che non basta fare, anche se uno fa 14.000 anni di tedesco nella scuola italiana, evidentemente la questione non è solo quanto tedesco si studia nella scuola, ma va ben oltre. E la questione che va ben oltre, l'elefante nella stanza, e l'ha detto anche Donatella adesso, lo sappiamo tutti, è oggettivamente la separazione tra i gruppi linguistici. Lo è, e lo è, e qui appunto, secondo me non piace tendenzialmente, mosso da uno spirito democratico, e anche secondo me cogliendo un po' lo spirito del libro, colpevolizzare le persone o pensare che sia solo una questione di volontà. Non è solo una questione, non basta la volontà. Perché noi conosciamo, anzi viviamo con persone che la volontà di apprendere un'altra lingua, anche se vengono da altri contesti, esempio dell'Italia, ce l'hanno, non è solo appunto un'assenza di volontà. E non vorrei che si cadesse nuovamente, perché questa è una cosa che si è detto tanto in questi anni, che è solo una questione di volontà. Non vogliono studiare l'altra lingua, non la vogliono parlare. Oppure quanto appunto, e qui torno alla questione della separazione linguistica e vengo a una sorta di domanda, quanto ci sia comunque appunto una volontà di mantenere l'etichetta e il legame tra lingua e identità, che comunque nel libro è evidente, cioè se sei parli italiano, sei italiano, sei tedesco, parli tedesco, sei italiano. Io scrivo per il giornale che hai citato, e a me capita, vi so, ein Artikel auf Italienisch über eine deutsche Partei, weil wir in Südtirol sind, però non basta, cioè è evidente, è così, tu sei italiano, parli. E è evidente che questa etichetta mantiene, c'è cioè una volontà comunque politica da un lato a mantenere questa cosa, perché è così, anche volontà di chi abbiamo per anni pensato potesse essere la persona che invece andava in un'altra direzione, anche chi governa la provincia in questo momento, non si va nella direzione esattamente opposta a quella per cui appunto la lingua dovrebbe essere un fatto di comunicazione, non solo di identità. E qui anch'io ho apprezzato molto il capitolo sulla cura, sulla salute, perché quello, la lingua è comunicazione, la lingua è quello, non è appunto chi siamo e non è un certificato. Però appunto, e qui viene la domanda, quanto è forte la volontà politica? Secondo te quanto c'è un elemento che appunto di conservazione di questa realtà nel mondo politico? Però, e qui viene la seconda parte, quanto c'è stata una arrendevolezza, o forse anche a sto punto un fallimento, di quelli che erano eredi o hanno portato avanti un certo messaggio negli anni di contestazione di questa cosa, e forse evidentemente o hanno accettato questa conservazione, cioè accettare che ormai è così, e ognuno fa la dichiarazione di appartenenza linguistica, i bilingui si dichiarano tedeschi o italiani, e poi resti per tutta la vita quello, o cambi. E quindi forse da quel punto di vista lì, allora, ho capito, non è una domanda semplicissima. Io non parlo nel libro e nemmeno sono convinto che esista una volontà politica. O meglio, il termine volontà politica tendiamo a enfatizzarlo troppo, no? La politica ha una volontà. Allora, cerco di nuovo di provare appunto. Allora, parto da un presupposto. Io non ho nessuna intenzione di negare l'interpretazione altrui. Dico che io questa interpretazione non la seguo perché, più che di volontà, la volontà soggettivizza. Cioè, ci immaginiamo un soggetto che ha una volontà e fa qualcosa per ottenere qualcos'altro. Questo è un modello che non si concilia con lo studio dei dispositivi. I dispositivi sono anonimi. Esiste una sorta di flusso di atteggiamenti che non hanno necessariamente alle spalle una volontà. Non ce l'hanno. Poi, quando lei, non, secondo me, lei poi mi dice che ce l'hanno e va bene. Io parlo parlare di volontà significherebbe avere un'intelligenza, sapere dove si va, dove si vuole andare. Non lo sanno. Non, i politici non sono così intelligenti. Non lo sanno. Mi permetto piccola precisazione, se posso. Una piccola precisazione. Che avete parlato del nostro manifesto di una volta con quella Salma. Non c'era scritto «sono morto» perché non ho potuto parlare tedesco. C'era scritto semplicemente «hier stirbt die deutsche Sprache». Si può discutere sul gusto di quel manifesto, sicuramente, però il messaggio era molto forte ed era previsto fortemente, perché l'uso della madrelingua, in questo caso tedesco, che tante volte si deve veramente dire che è così, che è la verità, che non è praticabile per tutti, specialmente per la gente di madrelingua tedesca. Perciò questo fatto, volevamo segnalare questo fatto, quanto sia importante di poter parlare con il medico nella propria madrelingua, solo per precisare che non era scritto quello come l'ha fatto intendere lei, ma hier stirbt die deutsche Sprache, o das Recht auf die deutsche Sprache. Danke, grazie. Comunque nel testo è citato letteralmente, comunque quello che ha detto la signora Klotz è vero, nel senso è vero che spesso la possibilità di parlare tedesco è limitata, infatti io dico che la lingua ponte è l'italiano, però con un intento completamente diverso. un'analisi completamente diversa da quella lì. Con tutto sommato è andata anche abbastanza bene, nel senso che si è dovuto confrontare con dei dialetti e una lingua italiana, perché purtroppo gli italiani di qui hanno perso i dialetti di loro provenienza. Bene, allora direi che ultima domanda, poi dopo chiudiamo, che così possiamo fare. Prima dell'ultima domanda, volevo dire innanzitutto il libro stasera, no, abbiamo affrontato veramente un frammento di quello che c'è dentro, per cui, e quello che c'è dentro è molto spesso quello che non pensate voi. Primo. Secondo, la copertina del libro sintetizza di Benno Simma, secondo me è meravigliosa, perché sintetizza esattamente quello che volevo dire io, cioè qui ci sono dei percorsi, ci sono delle strisce colorate di diverso colore che si incrociano o si separano, non si capisce, ma per capirlo bisogna leggere il libro. Ecco. Se si parla di responsabilità politica, io direi anche questo. 50 anni fa e più si diceva che il bilinguismo è fondamentale per noi, deve essere un obiettivo da raggiungere. A distanza di 50 anni è stato raggiunto o meno? E se non è stato raggiunto, esiste una responsabilità politica? E se esiste una responsabilità politica, chi aveva avuto la responsabilità politica negli ultimi 50 anni in questa provincia in termini di politica che determinava i destini? La responsabilità è collettiva, non solo della politica, e non si è raggiunto il mito. Non si è raggiunto il mito, perché era un mito. Si è raggiunta una pratica di bilinguismo imperfetta, tentennante, oscillante, frammentaria, in alcuni casi ottima, in alcuni casi no. Quello che non si è raggiunto è il mito, perché il mito ostruisce il raggiungimento della realtà. Grazie. Bene. Io volevo dire solo una cosa. E gli stranieri dove li mettiamo? Cioè, non hai previsto qualcosa sul fatto che non siamo più solo i tre gruppi? Sì, sì, è previsto. Ah, è previsto. Grazie a tutte e a tutti.